Questo è un audiolibro realizzato per il progetto LibriVox. Libera i libri con la tua voce. Questo audiolibro è rilasciato sotto la licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale, condividi allo stesso modo. Audiolibro registrato da Marzia, marzia@cumaves.it. Che cosa è la mafia? Di Gaetano Mosca. Capitolo 3. È difficile determinare precisamente quanto lo spirito di mafia si è diffuso in Sicilia. Bisognerebbe prima fissare il punto dove la verità mafiosa comincia e dove finisce. Certo, esaminando uno ad uno i siciliani con criteri molto rigorosi, battezzando per mafiosi tutti coloro che in qualche caso speciale credono preferibile di mettere a dovere con le proprie mani un tracotante o un offensore anziché ricorrere alla giustizia, si potrebbe asserire che la mafia comprende la maggioranza degli abitanti dell'isola. Ma se invece ricorriamo a criteri più larghi, più giusti, se consideriamo per mafioso solo colui che per spirito di mafia ha commesso un reato, o almeno capace di commetterlo, allora i siciliani, che come dicono gli italiani del nord sono affiliati alla mafia, diventano una scarsa minoranza. Volendo fare delle distinzioni, a seconda delle varie classi sociali e delle varie regioni dell'isola, dirò che lo spirito mafioso, in generale, è più forte e diffuso nei piccoli paesi e meno assai nelle grandi città. Sebbene poi i contadini più poveri dell'interno dell'isola ne siano meno affetti di quelli più agiati, intelligenti dei comuni vicino a Palermo e delle borgate rurali annesse a questa città. È naturale pure che lo spirito mafioso sia in generale più forte, giacché si dica e si scriva in contrario, nelle classi povere e rozze anziché in quelle ricche soprattutto e in quelle istruite. Bisogna però riconoscere che vi è qualche grossa frazione delle classi più povere, formata da coloro che esercitano certi determinati mestieri, che ne è quasi completamente immune. Ciò avviene segnatamente nei marinai e pescatori numerosissimi nell'isola. Ed è pure vero che alcune frazioni delle classi dirigenti, certe famiglie ricche, perfino blasonate, sono fortemente intinte di mafiosità. Si tratta però spesso di famiglie di gabellotti o grossi affittuari di fondi rustici, recentemente arricchite, nelle quali l'educazione e la cultura sono rimaste indietro alla ricchezza di una o due generazioni, oppure, se sono famiglie antiche blasonate, sono di quelle che al blasone accoppiano una buona dose di ignoranza e di rusticità, male larvata da una specie di gentilomeria sui generis, e che, abitando per lo più in borghi appartati, dove le idee di sentimenti moderni hanno avuto finora poca presa, hanno assunto, mi si passa la metafora, il colore morale dell'ambiente che le circonda. Nella stessa famiglia, poi, anzi nello stesso individuo, lo spirito di mafia aumenta o diminuisce e scompare a seconda che egli viene trasportato da un luogo ad un altro dove l'ambiente è diverso. Il siciliano che va nel continente, in paesi dove la mafiosità è considerata come cosa bassa e volgare, col mirabile intuito e con la straordinaria facilità di adattarsi ad un nuovo ambiente che lo distinguono, si spoglia subito di uno spirito di mafia. Lo stesso fa in grado minore il siciliano che da un piccolo centro mafioso viene a stabilirsi a Palermo, o a Messina e a Catania. Viceversa, in certi piccoli centri rurali, dove ricorrere in certa occorrenza alla giustizia regolare riesce cosa poco efficace, forse anche perché è poco usata e non contribuisce a fare rispettare l'individuo che ne usa, anche il siciliano delle grandi città, che vi deve lungamente dimorare, acquista una forte tinta mafiosa e perfino la possono prendere gli oriundi dell'Alta Italia che in questi paesi fissano il loro domicilio. Ho potuto però constatare che i nativi dei comuni e borghi rurali più profondamente e tradizionalmente ricchi di spirito mafioso, se per lungo tempo abitano nelle grandi città dell'isola o nel continente italiano e si acquistano una solida e larga cultura intellettuale, subiscono una vera trasformazione psicologica, in forza dalla quale sentono un'invincibile ripugnanza a ritornare stabilmente nel paterno loco. In seguito alla trasformazione psicologica di cui ho accennato, essi hanno un tale rispetto per la legalità e sentono tale disgusto per le violenze private da non essere in questi riguardi inferiori ai più perfetti galantuomini dell'Alta Italia. Ciò che, se mancassero altri argomenti, basterebbe a provare che la mafia non è effetto dell'eredità o della razza, ma dell'ambiente in cui si vive. Accade spesso che un italiano dell'Alta Italia domandi confidenzialmente ad un suo amico siciliano se il tale o il tal altro suo corregionale sia un mafioso e si senta rispondere di sì. La risposta è molto spesso data in buona fede, ma bisogna sempre accoglierla con beneficio di inventario. E occorrono almeno altre domande più precise se si vogliono informazioni davvero concludenti. Per un siciliano è mafioso qualunque suo corregionale che lo sia un pochino più di lui, che ammetta quindi, anche teoricamente, un uso un po' più largo dell'azione della forza privata nel caso che si debbano prevenire o respingere possibili offese. Perciò la taccia di mafioso può facilmente venire applicata anche ad una persona che non è affiliata ad alcuna associazione criminosa, che non ha mai commesso e che sarebbe forse incapace di commettere un vero reato. L'immortale Manzoni, il più grande sociologo d'Italia moderna, e grande sociologo perché psicologo profondo, descrivendo Renzo, dice che questi aveva una certa aria di braveria comune allora anche agli uomini più queti. Ora, sarebbe una vera esagerazione paragonare la Sicilia d'oggi alla Lombardia dell'epoca dei Promessi Sposi, ma certo le tracce di quell'epoca si possono ritrovare più vivaci e durature nell'isola che nell'Alta Italia. Una certa aria di braveria o, se così vogliamo, un certo profumo di mafia è perciò ancora oggi assai più diffuso in Sicilia, anche negli uomini onesti, anziché in Piemonte, nel Veneto o in Lombardia. Soprattutto poi, ed è questa la vera specialità della regione, mentre il detto profumo nell'Alta Italia bisogna ricercarlo solo nei bassissimi strati sociali, nell'isola lo si può ancora sporadicamente trovare, e molto intenso, anche in individui delle alte classi, i quali qualche volta occupano posti elevati, che conferiscono molta autorità e che fanno presumere che chi ne è investito goda la stima dei propri concittadini.